Anna, moglie di Elcana, una donna che credeva nella preghiera. Le difficoltà del matrimonio dipendevano in parte da lei. Era stata lei, come Sara, a spingere il marito a prendere una concubina quando aveva scoperto di non poter avere figli? O era stata incapace di resistere all'amore di Elcana, diventando la sua seconda moglie dopo che lui aveva sposato Peninna? In entrambi i casi, Anna certamente non aveva previsto le dure conseguenze del suo matrimonio. Il secondo matrimonio aveva portato una terribile sofferenza a ciascuno dei tre partner. Molto probabilmente Anna non aveva colpa perché in seguito non sarebbe stata esaudita. Forse Elcana, uomo timorato di Dio, era diventato bigamo di sua propria iniziativa. Qualunque fosse la causa, la sua esperienza non era meno penosa. Lo Spirito Santo non ha ritenuto necessario registrare i particolari. Ma la Bibbia ci dice che Anna era una donna che aveva accesso presso Dio. La via di Dio le era aperta. Sulla base del perdono dei peccati, ottenuto per fede attraverso i sacrifici che il marito capo della famiglia offriva regolarmente al Signore. A volte una persona viene provata alle radici del proprio essere e sembra che una potenza invisibile stia operando per distruggere la sua vita. Anna doveva sentirsi così. Aveva sparso lacrime cocenti perché si sentiva rigettata da Dio per il fatto di non avere bambini. E l'altra moglie di suo marito non tralasciava mai l'opportunità di ricordarglielo. E il Cana, volendo confortarla, le aveva detto che l'amava più di tutto. Non era il suo amore più importante di 10 figli? Anna era stata felice di questa espressione di amore, ma queste parole le avevano dato da pensare. E avevano finito per renderla ancor più solitaria. Elcana aveva dunque rinunciato ad avere figli da lei? Forse ricordò che Abramo aveva lottato con Dio per avere un figlio e che Isacco, in una situazione simile, aveva pregato per la moglie. E le loro mogli, anche se anziane, avevano dato alla luce dei figli che erano diventati molto importanti per il suo popolo. Questi figli avevano fatto parte del piano di Dio per Israele. Dio, egli era il solo che potesse capirla, il solo che potesse aiutarla, pensò. Se ne tornò al tabernacolo da sola e si prostrò davanti all'Eterno, col cuore spezzato senza parole, forse senza neppure poter esprimere i suoi sentimenti. Poi, quando il cuore si fu un po' liberato dagli affanni, le sue labbra si apersero a mormorare una preghiera, senza che si udisse la sua voce. «O Eterno degli eserciti!» cominciò. Era il modo in cui lei si rivolgeva a Dio. Era il suo modo per dichiarare come egli le appariva. Egli era l'Eterno degli eserciti, il Signore della terra, quello che aveva creato ogni cosa. Colui che combatte il male e ha un'immensa schiera di angeli al suo servizio. Egli era il Signore che poteva fare tanti miracoli per Israele come nazione. Queste quattro parole, O Eterno degli eserciti, esprimevano la fede di Anna nella grandezza e nella potenza di Dio. Un commentatore dice che è questa la prima volta che una persona si è rivolta a Dio in questa maniera. Essa si vedeva alla luce della sua maestà. Lo sono niente, pensava. Sono solo una serva. Ripete questo pensiero 3 volte, scegliendo le parole con cura. Si considerava una cosa insignificante alla luce della santità di Dio, eppure voleva servirlo. E questo è il giusto ordine di valori perché, pur essendo una misera creatura umana, poteva servire Dio. Rendendosi conto di questo, Anna gli chiese un grande favore. Non si limitò a chiedere un piccolo favore, come non si chiederebbero poche lire a un milionario. Da un così grande Dio, uno deve aspettarsi niente meno che un miracolo, un vero miracolo. Anna non pregò in modo vago, fece una richiesta specifica. Dio, io voglio avere un figlio, fece seguire alla sua richiesta una promessa. Lo darò a te per tutta la vita, nessun rasoio toccherà il suo capo. Il figlio, se Dio glielo avesse dato, sarebbe stato un nazireo, cioè un uomo dedicato a lui e che non avrebbe bevuto vino, né si sarebbe tagliato i capelli. Anna in realtà stava dicendo: Dio, tu sai che io desidero avere un figlio. Ma ancor prima di chiederlo per me, lo voglio chiedere per te se è possibile. La religione del suo popolo, cioè quella dei sacerdoti, aveva perso il suo valore, era stata corrotta, eppure Anna aveva conservato la sua fede, l'aveva mantenuta pura. Tuttavia, la sua influenza era limitata. Il paese aveva bisogno di un uomo che costruisse un legame tra Dio e il suo popolo, che potesse saldare la rottura e far conoscere un futuro migliore. Evidentemente, il cuore di Anna non pregava solo per se stesso. Essa piangeva per Dio, per il suo popolo. Per questo la sua preghiera ebbe un effetto così duraturo. Anna sì. Uno rendeva conto che la soluzione ai problemi della sua nazione era spirituale e possibile, anche se ciò che riportano le scritture è insufficiente per poterlo affermare. Il declino del popolo e, primo fra tutti, del sacerdote stesso, è dimostrato anche dall'atteggiamento di Eli nei confronti della protagonista. Egli dimostrò poca compassione. «Quanto durerà questa tua ebbrezza?» le sgridò. «Va a smaltire il tuo vino!» Il sacerdote, che non aveva osato trattare severamente i propri figli, non ebbe ora alcuno scrupolo nel trattare duramente Anna. Egli rivelò mancanza di comprensione e di autocontrollo. Le sue parole rivelano che in quei giorni, nella casa di Dio, non era insolito vedere gente ubriaca e donne da poco. Anche i figli di Eli dormivano con le donne che erano di servizio alla porta del tabernacolo. Tuttavia Anna non sentì il desiderio di difendersi o di giustificarsi. Non espresse alcuna vergogna o indignazione. Spiegò invece la situazione in poche parole. Eli si riscosse e come sacerdote, come rappresentante di Dio, disse: «Va in pace e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta». Eli non conosceva la natura della sua richiesta, ma guidato dal Signore, le disse che era stata ascoltata. Con quelle parole, la pace del Dio che ascolta la preghiera della fede scese nel suo cuore. Anna aveva portato i suoi dolori a Dio e li aveva lasciati nelle sue mani. Or la fede è certezza di cose che si attendono e dimostrazione di cose che non si vedono. L'autore della lettera agli Ebrei scrisse, molti secoli dopo, questa verità, corrispondente a ciò che Anna aveva sperimentato. La certezza che la sua preghiera era stata esaudita entrò nel suo cuore. Anche esteriormente il cambiamento fu notevole. Riprese appetito e il suo viso non rifletteva più alcuna traccia di tristezza. Viveva per fede, aveva fiducia nel Signore e anche l'altra gente lo notava. Samuele, il cui nome significa esaudito da Dio, nacque l'anno dopo. Il significato del nome Anna, che significa grazia o trascurata, divenne favorita. Cominciò ad avere un senso. Invece di essere una donna straordinariamente privilegiata, perché la sua preghiera portò un cambiamento nella storia di Israele. Non molto tempo dopo, infatti, la parola di Dio si sarebbe udita nuovamente in tutto Israele. Dio si sarebbe rivelato attraverso Samuele sin da quando era ancora ragazzo, dal nord fino a Beersheba, al sud. Il popolo riconobbe in Samuele un profeta designato da Dio. Le cose cambiarono per il popolo quando egli cominciò a servire il vero Dio. L'arca del patto, che era stata presa e contaminata dai Filistei, fu riportata nel paese. I Filistei fecero pace con Israele perché ai giorni di Samuele la mano di Dio era contro di loro. Le città perdute in battaglia furono riconquistate. La fede di Anna viveva ora in suo figlio. Centinaia di anni dopo, il suo nome fu elencato fra gli eroi della fede. Egli fu uno di quegli uomini che, per fede, vinsero regni. Samuele, il cui nome gli ricordava costantemente di essere nato in risposta a una preghiera, divenne a sua volta un uomo di preghiera. Egli riteneva un peccato non pregare. Questo atteggiamento, forse, è la chiave dei molti esaudimenti ricevuti alle proprie preghiere. Solo l'eternità rivelerà quanto sia stato importante il ministero di Samuele per Israele, che egli servì come profeta, sacerdote e giudice, e per i milioni di persone che hanno studiato la sua vita. Oh Anna, non ti sei considerata favorita quando hai visto il risultato della tua preghiera? Non sei stata privilegiata come Sara e Rebecca nel vedere il tuo figliuolo avere questo posto importante nella storia? Maria, la madre di Cristo, doveva avere subito l'influenza della preghiera di Anna e del suo inno di lode quando esaltò il Signore dopo l'annuncio dell'angelo. I primi anni di Samuele furono un periodo meraviglioso per Anna. Il tempo naturalmente passò in fretta e, appena Samuele fu svezzato, ella adempì la sua promessa e, riconsegnandolo a Dio, dal quale lo aveva ricevuto. Da allora in poi le fu possibile rivederlo una sola volta all'anno quando lei e il marito offrivano i sacrifici a Shiloh dove Samuele risiedeva. La fede di e la dedizione di Anna erano totali. Offriva suo figlio al Signore giorno per giorno nella fiducia che egli avrebbe protetto la fede di Samuele in mezzo alla corruzione che vedeva in Eli e nei suoi figli. La preghiera di edificazione continuò a caratterizzare la sua vita, perché Anna aveva sperimentato che una persona che dà tutto a Dio riceveva da lui in cambio molto di più. Dio non è né sarà mai debitore di due alcuno. Infatti, egli le diede altri 5 bambini. Perché Anna poteva contare sull'esaudimento di Dio? Perché la sua preghiera aveva i requisiti necessari. Questi requisiti non sono raccolti in un solo passo della scrittura. Sono principi che, nel suo cammino con il Signore, ella aveva intuiti e conosciuti, cioè le pregare perché i peccati siano perdonati. 2. Invocare il nome di Dio, riconoscendo la sua grandezza. 3. Essere convinti della propria pochezza. 4. Formulare una richiesta chiara e ben definita. 5. Desiderare che la volontà di Dio sia fatta e che il suo regno sia esteso. 6. Pregare con fede. Li abbiamo nella nostra vita di preghiera? Qualcuno ha detto: tutti i grandi uomini della terra oggi sono uomini o donne che pregano. Non mi riferisco a coloro che parlano della preghiera, né a quello che possono dirci su di essa, ma alle persone che pregano. Non sono persone che hanno più tempo a disposizione degli altri. Il tempo, tuttavia, lo prendono da qualche altra parte. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia tratti da qualche parte e rivisti. 3.